ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Un anno dopo punta ancora verso uno scheletro di ferri arrugginiti e mare sullo sfondo il cartello della biglietteria della città della scienza. Un anno dopo, quello che siamo in grado di dirvi con sicurezza è che la chiusura delle indagini è vicina e che presto dunque avranno un nome quelle mani che bruciarono il 4 marzo 2013 il principale polo di cultura scientifica italiana, centro di eccellenza nel Golfo di Bagnoli a Napoli. Un anno dopo, l'accordo per la ricostruzione alla fine è stato faticosamente trovato, anche se in ritardo e anche se la firma che lega la rinascita del museo alla bonifica dell'ex Italsider è slittata più volte, ma questa dovrebbe essere la volta buona, commenta Vincenzo Lipardi, consigliere delegato di Città della Scienza. Un accordo importante perché da un lato fa ricostruire un simbolo della cultura e dell'innovazione italiana, dall'altro come interviene su uno dei 34 siti di interesse nazionale inquinati, oltre ad essere il più importante science center italiano e anche uno degli incubatori di impresa più importanti d'Europa, una piccola Silicon Valley che vuole contribuire a un rilancio della vocazione industriale e innovativa del nostro paese. C'è Nisida davanti alla sua scrivania, c'è il mare e c'è il profilo di una delle più belle insenature della costa campana, ma ora ci sono soprattutto da una parte i pilastri anneriti, i vetri scoppiati del museo bruciato un anno fa e dall'altra la grande fabbrica ferma, la distesa di lamiere e camini spenti da 20 anni, resti di quello che fu l'Italsider e che da tanto ormai è soprattutto l'eterna incompiuta fonte di scontro, polemica e incertezza ad ogni livello. È qui che bisogna cercare le ragioni di quelle fiamme nella battaglia sul futuro di Bagnoli, o piuttosto è qui, tra quel che resta della stessa città della scienza, che va trovata pure l'origine di quel terribile attentato? Come un fantasma, con sempre più insistenza, infatti, si muove e si diffonde l'ipotesi di una pista interna. È palese che Città della Scienza sia stata incendiata da persone che stanno all'interno, perché nessuno che possa venire dall'esterno in un momento possa dare atto ad un disastro del genere. Città della Scienza è complice, sa tutto lei, ha fatto tutto loro, per un fatto economico. Un atto del genere ha portato di nuovo all'attenzione dell'opinione pubblica quello che era Città della Scienza. Non dimentichiamo che la Città della Scienza era sul ruolo del fallimento, praticamente aveva i decreti ingiuntivi pronti e le persone che gli potevano fare i pignoramenti, per cui stava in una situazione veramente disastrosa. Attirare l'attenzione su una struttura che all'epoca era a rischio chiusura, dove molti non erano pagati e le tensioni erano forti. L'ipotesi investigativa della pista interna nel corso dei mesi ha preso forza, rafforzata pure dal fatto che le fiamme sono state appiccate in un giorno di chiusura e in assenza di personale. Un gesto dimostrativo dunque, ma così eclatante? Di sicuro c'è che solo molto dopo l'inizio dell'incendio sono arrivate le prime chiamate ai vigili del fuoco, la prima alle 21:16, la seconda poco dopo, quando le fiamme ormai erano già alte. Ipotesi che viaggiano di pari passo però con le altre mai abbandonate, che con questa potrebbero anche unirsi. Da una parte gli interessi dei clan, della camorra dunque, abituata in genere a bruciare quando non si paga il pizzo, ma che potrebbero avere mire più lunghe i boss sulla bonifica dell'aria e su tutti i progetti intorno a Bagnoli. Dall'altra parte però c'è ancora, e non è stata mai abbandonata, anche l'ipotesi più inquietante, quella di un atto eversivo. Vista la precisione delle fiamme appiccate in 4 punti, vista anche la complessa realizzazione dell'attentato che richiede mani esperte, ma forse più interessi differenti potrebbero essere confluiti in quelle fiamme, anche se l'ipotesi della pista interna alla Città della Scienza è respinta con forza dai dipendenti, o meglio, da quasi tutti. Guarda, io alla pista interna non ci credo molto. Noi con il sindacato ragionavamo sul costituirci come parte civile proprio nei confronti degli autori di questo rogo, perché noi il 4 marzo abbiamo visto davanti a noi, oltre a quello che vedevano tutti, cioè un museo che bruciava, abbiamo visto bruciare il nostro posto di lavoro. Sappiamo che qualora ci fosse il premio assicurativo sarebbe meno di quanto la Fondazione IDIS impiega per la ricostruzione. ricostruzione di Città della Scienza, quindi diciamo una mente criminale poco furba. Molto grande l'interesse che richiama quest'area da sempre, molto grandi sono le cifre spese, molto grandi saranno le cifre che si dovranno eventualmente spendere su quest'area. Molto grande potrebbe essere anche il movente di quello che è accaduto. Quasi tutti, perché in realtà voci discordi di chi non lo esclude, di chi crede effettivamente possibile la presenza tra quelle strutture dei mandanti dell'incendio di Città della Scienza, effettivamente ci sono. Ma si tengono ben lontani dai microfoni, come nessuna autentica collaborazione è arrivata in questa OAN o in procura. La pista interna viene però allontanata come infamante anche da Vincenzo Lipardi, consigliere delegato del museo, che piuttosto mette in fila quanto successo subito dopo il rogo dell'anno scorso. Tutte le richieste di spostare il museo, e dice, Città della Scienza dà fastidio a tanti. Sono 5 milioni per la bonifica e per la messa in sicurezza dell'area bruciata. Parallelamente parte appunto un progetto di 56 milioni di euro, di cui 34 messi dalla Regione Campania e 22 dalla Città della Scienza direttamente. Su Bagnoli, anche se non vi riguarda, però in qualche modo va parte di questo stesso accordo politico comune, che cosa è stato deciso? Si firma un protocollo d'intesa in cui, come dire, si riprogrammano le risorse già disponibili. Ricordo che il Comune di Napoli ha 48 milioni nel cassetto e verrà fatto un progetto comprensivo che sostanzialmente, nel far partire questo primo pezzo di bonifica, però lo inserisce in una cornice più completa, che risolve appunto i temi della bonifica dei suoli, i temi della bonifica del mare. E poi c'è questa idea, questo sogno del Comune di Napoli di fare una spiaggia, probabilmente il progetto che fu pensato dal Comune di Napoli 20 anni fa, cioè di farne questo parco verde con roseti, giardini, eccetera, si adatta probabilmente a un piccolo villaggio della Svizzera, ma non a una grande città industriale con indici di disoccupazione come Napoli. Noi qui, nei nostri 7 ettari di Città della Scienza, tra le aziende dell'incubatore, sono circa 36, che ogni 4 anni vengono rinnovate, e chi si occupa di formazione permanente e chi si occupa di divulgazione scientifica, diamo lavoro a 500 persone. Se su 7 ettari lavorano 500 persone, sui 204 ettari di Bagnoli, diciamo, se uno fa una proporzione, una moltiplicazione, si rende conto di cosa potrebbe essere quest'area con un po' meno di ideologia, più rispetto dell'ambiente, quello vero, sia l'ambiente sociale che l'ambiente naturale, senza inventarsi paradisi, e anche facendo i conti con il bisogno fondamentale di una grande città, che è quella di riportare funzioni tra cui il lavoro. Questo accordo siglato a Roma fa superare in qualche modo la figuraccia del mancato accordo del 4 marzo? Ci sono delle date che vanno rispettate. E mi dispiace appunto che si sia arrivati a non cogliere anche l'aspetto simbolico della presenza del ministro Giannini. Noi siamo rimasti dispiaciuti anche perché, devo dire, al di là di quello che è apparso, c'è stato un lavoro congiunto importante. Un anno dopo, appunto, l'accordo sembra essere ormai vicino, lo scheletro della Città della Scienza è ancora qui, circolano ipotesi di vario tipo, compresa anche quella di un'ipotesi di piste interne. Città della Scienza una notte è stata distrutta da 8 bombe, e se dopo un anno non si sono trovati i criminali che materialmente hanno fatto l'attentato e i mandanti, vuol dire che chi l'ha fatto, vuol dire che era un livello altissimo. Che ci possano essere la persona interna che può aver non visto, voluto non vedere, certo, io questo non lo posso escludere. Quando si parla di pista interna si dice un'altra cosa, ed è un fatto infamante che io trovo intollerabile. Quello che dico è, se quello che sta succedendo, appunto la bonifica, i suoli non venduti, porti che non si fanno, eccetera, ci sono dei grumi di interesse così forti che io trovo quantomeno incauto dire qual è l'interesse di grandi organizzazioni criminali. Io mi sento un po' preoccupato, molto preoccupato. Insomma, noi abbiamo bisogno di sapere chi è stato. Tenga conto che il 5 marzo persone di buonsenso avrebbero preso le chiavi e chiuso la struttura. Ricordo che Città della Scienza è una fondazione, un ente non profit. Nel ricostruire noi dobbiamo avere la tranquillità che questo non succeda più. Lo vedi soprattutto negli interessi che ruotano intorno a quest'area. Dopo 2 giorni, settori dell'imprenditoria, i centri sociali, insomma, gente la più strana che ci ha detto andate da un'altra parte. Ed è l'unica parte del mondo in cui bruci un museo della scienza, un'istituzione riconosciuta nel mondo, e ti dicono vai da un'altra parte. Io non amo retroscene. è però fotografo. La presenza della Città della Scienza dà fastidio perché dimostra che a Napoli in particolare si può fare, che si può creare sviluppo, che la cultura è uno strumento importante di presidio dei territori. E voglio ricordare che Città della Scienza sorge in un'area dove 20 anni fa ci fu presentato un progetto bellissimo che avrebbe dovuto, come dire, fare di questa parte della città l'Eden. Se dopo 20 anni non si è fatto nulla tranne Città della Scienza, ricordo che il museo portava 350.000 visitatori, il più importante museo della scienza italiano. E beh, dico, davanti a questo, che un ente non profit venga colpito in questo modo è un fatto che sconvolge. In qualche modo immagino ci si senta anche meno sicuri. Se si bruciano le mura, può succedere anche degli incidenti delle persone. Dopo aver dato l'immagine del peggio di sé dell'Italia, con la mano criminale che ha incendiato la Città della Scienza e con le beghe politiche che hanno fatto saltare la firma del primo accordo per la ricostruzione, ora lei è più, possiamo dire, fiducioso, sereno, che invece si riesca a riscattare Città della Scienza e l'immagine anche di Napoli e dell'Italia con una ricostruzione veloce, quindi non so, obiettivo aprire Città della Scienza quando? Chi viene a Città della Scienza resta colpito perché Città della Scienza funziona. Il prossimo 4 marzo inauguriamo quello che doveva essere l'ultimo pezzo del vecchio museo, che è corporeo, il museo del corpo umano, e poi in 3 anni noi riapriremo il vecchio museo, che sarà un museo bellissimo. Quindi 3 anni dopo la gara o 3 anni da adesso? La nostra determinazione è farla a 3 anni da adesso. Nel 2017? Nel 2017, un anno, noi siamo un po' scaramantici, noi napoletani, però va bene lo stesso. Noi nel 2017 apriamo Città della Scienza. Pista interna, atto eversivo, interessi della Camorra per la bonifica dell'area, per la riqualificazione dell'intera zona di Bagnoli, un progetto da 1 milione di euro. Ma perché la Camorra dovrebbe volere il rogo della Città della Scienza di un ente non profit? Che clan sono più operativi in questa parte di Napoli, poi? A ciascuno il suo. Seduto in un bar diracchettizzato, Ranieri Bolognese sorride e dice: «Io sono la prova che la legalità paga». Se è vero che la presenza delle mafie rischia di allontanare dal sud investitori di fuori e pesa su quelli di dentro, come la giustizia lenta, che costa 2 miliardi all'anno alle imprese, calcola Confartigianato, è anche vero che a Napoli ora chi denuncia il pizzo, come questo commerciante di Bagnoli, trova aiuti eppure ritorni economici. Il suo negozio è poco lontano dalla Città della Scienza, o meglio, da quel che ne resta. Adesso sono uno dei negozi che vendono di più a Bagnoli. Non mi aspettavo che avevano paura di entrare dentro, invece sono stato molto solitario, sono molto più agiato di prima. Di prima che il suo supermarket fosse bruciato 2 volte come la sua auto, dopo i ripetuti no agli estorsori. Lui li aveva fatti arrestare, alcuni appartenevano al clan D'Ausilio, imperante su Bagnoli. Nel gruppo all'epoca c'era anche un minorenne, tornato poi in carcere, di nuovo con la maggiore età, sempre per estorsione. Eppure questa di Bagnoli non è un'area a fortissimo controllo camorristico, come invece altre della città di Napoli. E anche questo ha fatto sorgere dei dubbi intorno all'ipotesi camorristica sull'origine del rogo di Città della Scienza. Fiamme però che potrebbero aver convogliato più interessi di natura diversa. Un anno dopo l'incendio, la pista camorristica sopravvive insieme a quella dell'atto eversivo, mentre col tempo ha sempre preso più quota pure quella della pista interna, che cioè dentro Città della Scienza, dentro la sua crisi, dentro il rischio chiusura che all'epoca si paventava, potesse essere maturata l'origine del rogo, insieme agli interessi su tutta quest'area e sulla bonifica dell'ex Italsider. La chiusura dell'indagine è vicina, come filtra da ambienti investigativi che abbiamo raccontato nella prima parte di A ciascuno il suo. Ombre nere come i ferri arrugginiti del museo bruciato. Ombre cupe opposte alla storia di coraggio e riscatto dai clan e dalla crisi che sempre a Bagnoli, a poca distanza dal museo bruciato, ha vissuto Ranieri Bolognese, commerciante e poi sostenitore dell'associazione antiracket, che invece a Secondigliano, ci confessa, non riusciamo a far entrare. Questa è la seconda volta che mi hanno incendiato il negozio. Nei primi anni del 2000 la stessa cosa, mi incendiarono tutta da zero, ho dovuto ricominciare tutta da capo. Ci racconti che cosa le dissero, che cosa le dicevano e quanto le chiedevano? La prima volta mi dissero che un ragioniere mi voleva parlare, che io risposi, ma già ce l'ho il ragioniere, chi è questo ragioniere? No, tu già hai capito chi è il ragioniere, quello ti vuole parlare. Io al mio rifiuto, ma io non mi interessa proprio parlare con questi ragionieri. Dopo alcuni giorni mi c'è andare nel negozio. Un incendio grave che addirittura mise a rischio anche la vita delle persone che abitavano al di sopra. Sì, perché un palazzo di 5-6 piani che vivono 26-27 famiglie è stato sfollato dai pompieri perché c'era tutto a rischio. Quindi all'inizio lei non denuncia, dopo la prima... No, feci il negozio, dice, vabbè, hanno fatto questo, ma si tolgono di mezzo. Però non aveva pensato a quel punto di pagare dopo l'incendio del negozio? No, pagare mai, perché quando paghi tanto vale che non apri più, perché se paghi, per me come la penso io, se paghi devi pagare sempre. Quindi a quel punto lei riapre, quindi senza paura, anche con coraggio, riapre, però poi tornano a farsi vivi. Poi passano alcuni anni e tornano a farsi vivi un'altra volta. Tornano un'altra volta, richieste estorsive. E quanto le chiedevano? 3.000 euro la seconda volta. E ho dato un rifiuto proprio nettamente di non dare niente a nessuno. Dopo poco tempo mi incendiarono la macchina e da lì feci scattare la denuncia perché questi non me li tolgo più di me. L'ho conosciuto anche a Tano Grasso perché poi mi era iscritta all'associazione, avevo conosciuto anche l'associazione, quella contro il pizzo. Quindi l'importanza anche di una rete che sostiene anche in tutto il percorso di legalità, quindi per lei quello è stato decisivo in qualche modo. Perché poi mi hanno seguito, mi sono stati vicini, poi ho avuto accesso ai fondi statali, diciamo, per riaprire il negozio. Cioè, avevo l'assicurazione sopra, ma una parte mi è stata ripagata l'assicurazione e una parte me l'hanno ripagato i fondi statali. Ecco, però lei denuncia dopo l'incendio dell'auto. Fece la denuncia, li fece arrestare tutto, passò un anno e mezzo e mi incendiarono proprio tutti i negozi un'altra volta. Questo quando i primi estorsioni erano già in carcere, sì. E quindi che cos'era questo secondo incendio? Stavano tutti in carcere, perché quattro di loro stavano tutti e quattro in carcere quando è successo. Tra le persone arrestate c'era anche un minorenne. Sì, c'era un minorenne che adesso da maggiorenne l'hanno arrestato un'altra volta per estorsione. Lei a un certo punto aveva anche provato ad andare via da Napoli. Mia moglie si pensava che Napoli, si pensa ancora che Napoli, perché mia moglie vive nella paura, si pensa ancora che Napoli è invivibile. Allora io avevo tentato di cercarmi di farmi una vita fuori, però non so stare lontano da Napoli. E quindi è tornato a Bagnoli e ha ripreso e ha continuato a lavorare nello stesso posto dove era stato bruciato due volte il negozio. Un'attività che prima avevo trascurato un poco, perché l'avevo trascurata perché me ne volevo andare, l'ho ripreso un'altra volta per le mani e l'ho fatta rifiorire un'altra volta. Ecco, non sempre però, non tutte le storie di imprenditori taglieggiati e vessati come lei hanno questo tipo di esito. Siamo in un bar dove questo bar pure è stato distrutto tutto e il padrone di questo bar adesso ne ha aperto un altro anche nella Pigna Secca, nel centro storico di Napoli, dove stanno gli stessi clan che avevano incendiato questo qua. Quindi proprio come una sfida, questo che cosa vuol dire? Che in qualche modo quando c'è una determinazione forte... Ma sembra che è una spinta in più, perché o ti fai prendere dalla disperazione, ma sembra che è una spinta in più. È rifiorito anche lui, perché lui commercialmente, diciamo, sta combattendo molto. Questo in certo senso è il volto positivo della lotta alla criminalità, cioè alla fine la dimostrazione del fatto che si può non solo combatterla e non piegarsi alle richieste della criminalità, ma anche riuscire ad andare avanti. Però appunto dicevamo, non in tutti i casi è così. Determinante per voi che cosa è stata? L'appoggio dell'associazione? L'appoggio dell'associazione, sì, perché non rimani solo. Perché... Com'è in questo momento la situazione racket, a cominciare ad esempio dal suo quartiere, quello di Bagnoli? Bagnoli è cambiato un poco, perché in alcuni posti di Napoli camminano questi qua e fanno queste estorsioni, adesso hanno camminato questi libretti in mano, diciamo no, non andiamo in questo negozio perché questo sta scritto all'associazione Anni Racket, andiamo in quell'altro. Però Bagnoli, già che ci sono quasi tutti iscritti, perché ci sono 70-80 commercianti e una cinquantina stanno iscritti all'associazione, non hanno una vasta scelta dove andare. Ma secondo lei questo momento di crisi ha fatto cambiare anche le richieste estorsive? Come siamo in crisi, noi stanno in crisi anche loro, perché non sanno dove prendere soldi. Le estorsioni si sono abbassate anche di prezzo? Sì, sono abbassati di prezzo le stesse, ma loro ci tendono di più perché non ci sono soldi. Dall'altra parte, dal punto di vista degli imprenditori, la crisi sta forse anche riducendo il numero degli imprenditori che pagano perché ci sono meno soldi. No, ma si stanno riducendo proprio gli imprenditori. Quello è vero, però in qualche modo voi vi rendete conto che il numero di chi decide di non pagare aumenta anche perché non ci stanno soldi. Non ci stanno soldi. E chi può cacciare i soldi? Devi pagare le tasse, devi pagare il pigione, devi pagare quella che c'è a lavorare, devi pagare. Quanta gente devi pagare? Come fa a pagare tutte queste cose? Sul fronte racket, in questo momento che fase è qua a Napoli? Sta diminuendo molto perché noi abbiamo dato una spinta proprio per far capire alla gente che possono anche denunciare. Prima a Napoli si pensava, quando si denunciava qualcuno che stava facendo un'estorsione, eri tu che stavi facendo la cattiveria. Ah, quello è un bravo giovane, come lo stai denunciando? Come? Io non puoi fare l'estorsione, posso denunciarlo, quello è un bravo giovane, è questo. Adesso invece sta cambiando proprio la mentalità. Prima se andava qualcuno a mettere i ponteggi fuori a un palazzo che doveva fare qualche lavoro o qualcosa, la prima cosa che faceva andava a cercare chi stava sulla zona per dargli i soldi. Adesso è molto cambiato. Mi stava dicendo prima che una delle zone dove c'è meno racket è proprio uno dei cuori, diciamo, dei feudi della Camorra. Sì, abbiamo tentato di entrare con l'associazione anche, diciamo, a Secondigliano, però sono quartieri particolari dove la metà dei negozi appartengono a loro e l'altra metà hanno interessi con quelli che vivono là, perché vendono a questi qua. Chi ha i soldi adesso sono quelli che camminano con la droga, con questo. Loro possono spendere qualche 100 euro quando gli altri non ce l'hanno. E voi cosa ne pensate del gioco di Città della Scienza? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it, dove trovate anche tutte le tappe di questo primo viaggio a sud di Radio 24 nella pagina Passione Sud. Per questa puntata grazie anche a Daniela Abrunzo da Napoli e in regia grazie a Gianmarco Ferronato. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.